fuma balli bella sola sola. Di la vuoi trovare, di la vuoi trovare, di la vuoi trovare la compagnia, di la vuoi trovare la compagnia. E mi lo faccio letta, e mi lo faccio letta, e mi lo faccio letta, ci ne vuole pena, e mi lo faccio letta. E fra due minuti inizia la trasmissione Mamma Trona. Questa è Radio Onda Rossa, la prima puntata di Mamma Trona, che ogni giovedì da mezzogiorno all'una vi allieterà con temi differenti attraverso musica, parole, citazione, racconti, favole e tanto altro. Svilupperemo i temi che più ci interessano e ci piacciono. Adesso iniziamo a spiegare anche che cos'è Mamma Trona. Mamma Trona, chi è? Chi è Mamma Trona? Chi è Mamma Trona? È la terra! Sono io! È tutto Mamma Trona! È la sostanza! È la mamma che ti abbraccia. Sono le cicale. E soprattutto a Mamma Trona che ci piace? A Mamma Trona ci piace... Oh, sud. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi macchie più scure, senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia, esempio a piace rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa, ma come fare no? Rossa, sempre su Mamma Trona. La prossima canzone è di Rosa Balestrieri, questa siciliana con una vita assai violenta. E Rosa ha una voce bassa che risulta proprio da cui traspare la violenza della terra siciliana da quale lei proviene. Lei viene da Alicata, un paesino in provincia d'Agrigento. E diciamo che appunto la vita violenta di Rosa Balestrieri traspare dalle sue canzoni, perché Rosa cantava quando nessuno poteva sentirla, perché il padre l'avrebbe picchiata di nuovo, perché le donne non cantano, lo fanno solo le puttane. Cantava tra sé e quando fu data sposa a 15 anni in un poco di buono per un matrimonio combinato dalle famiglie. Un matrimonio segnato anche questa volta da un marito padrone, le cui violenze le fecero perdere il primo figlio e averne una forza per un secondo dopo essere fuggita a Firenze. E, diciamo che dalla voce di Rosa traspare tutta la bellezza e tutta il caldo della terra siciliana essenzialmente. Rosa è stata sempre una cantastoria, perché lei esprimeva e rappresentava un'eredità storica della sua terra, denuncia secoli di oltraggio perpetuati ai danni dei più deboli e canta una realtà difficile che essa stessa ha vissuto sulla sua pelle. Il suo guanto era quello di chi la storia l'ha subita contro il potere ufficiale. Rosa non interpretava, era e soprattutto se stessa, autentica. La Sicilia aveva un bacione, bacione sempre uguale, calatene ne san croce e si canta o funerale. La Sicilia aveva un governo italiano con la forca allo capezzo e la corda dalle mani. La Sicilia ha una pace che la stringe dalle braccia, manza mai domanda pane, vince dallo e cannabazza. La Sicilia è spopolata, un deserto ogni paese, vecchie cani da lasciate, vecchie leggi, scavose mesi. Le pecciotte sono fora dalle braccia, l'hanno sane, ma lo pace italiano, se venne io con un pezzo di pane. La Sicilia è a giomme sciotta, dorme un sonno delle morte e ed aspetta mentre dorme che cangiassi la sua sorte. Ma la sorte non è ostia, non è grazia delle sante, se con questa, con la forza, dalle cazze e se va avanti, se con questa, con la forza, dalle cazze e se va avanti. Povera terra mia, come si può campare? Povera terra mia, come si può campare? Bene, dunque parliamo del sud e io vorrei parlare di una cosa che mi piace tanto, riguarda la mia terra, è il fenomeno del brigantaggio, diciamo una forma di banditismo dove i braccianti impugnarono le armi e cacciarono i piemontesi, gli invasori, perché si accorsero che i padroni insomma aumentavano, le tasse aumentavano, il servizio militare diventò obbligatorio per tutti, quindi si rubavano braccio al lavoro, e allora protestarono. Diciamo, ricordiamo anche uno dei più grandi briganti, Carmine Crocco, chiamato Donatello, che nacque nel Vulture, insomma in provincia di Potenza, e fece scorribante per tutta la Puglia, arrivò pure in Irpinia. E da bracciante, da umile bracciante, divenne comandante di 2000 uomini. Quindi a lui dedichiamo, al generale dedichiamo questa bellissima canzone. Amma usata chitarra e tamburo, questa musica s'atta cagnò, simma brigante facimma paura, e cascuppetta pulimma cantà, e cascuppetta pulimma cantà, e fa, e fa. E mo cantamma una nuova canzone, tutta la gente sarà tambana, noi combattimma vorrei pur la terra nostra è un salta tuffa, la terra nostra è un salta tuffa, e fa, e fa. Tutti i paesi rabbassa la casa, la società è buona luzza, pura Calabria mo si è arrabutata, e sto nemico facimma dramma, e sto nemico facimma dramma. Paura, non sapeva buona qual è la verità, povera lupa che magna creatura, è un piemontese che vimma caccia, è un piemontese che vimma caccia, e fa, e fa. Femma una bella carata e lucora, si lubricando pulita salva, cercate, scordate, buona mamma, chi c'è fa guerra non viene pietà, chi c'è fa guerra non viene pietà. Mamma se nasce brigante se muore, ma fino all'ultima mamma sparà, e si morimma manata nuciore, è una preghiera per sta libertà, è una preghiera per sta libertà. Omma se nasce brigante se muore, ma fino a nord ma mi mai sparà, e si morì in me manata c'è brigante d'amor. Ma fino all'urde ma chi mi sparà? E se morimme me la denunciare, è una preghiera per sta libertà, è una preghiera per sta libertà. Allora bene, i briganti che lottano, i briganti che lottano per noi. Ricordiamo tra questi briganti personaggi interessanti come Cosimo Mazzo, detto Pizzichicchio, Giuseppe Musolini, un re da Spromonte, Ciro Annicchiro, detto Papà Ciro, Carmine Crocco, il generale, Luigi Conzi, detto Chiavone, e soprattutto ricordiamo le brigantesse, perché bene sì, c'erano anche le brigantesse, come Filomena Pennacchio. Dalla storia avvincente, ammazzò suo marito all'età di 18 anni per riunirsi con un gruppo di banditi, briganti, che facevano capo a Ninconanco. Poi ricordiamo un'altra brigantessa come Giuseppina Vitale, chiamata Giuseppina Vitale e Maria Oliviero, chiamata Cicilla, che si racconta che prima di ammazzare i suoi prigionieri ci faceva l'amore. E poi c'era anche Michelina De Cesare. Insomma, queste brigantesse, tanto rispetto e tanto amore. Cent'anni fa ci stavano i briganti per un sogno di libertà. Allora per la macchia stavano alla casa segna, i capa massa foca pace guerra con la Mattei. Luna erano soldato contadino, che solo per fama diventare un assassino. Ci stava pure chi combatteva per un re e chi per la terra che n'aveva potuta avere. Stamattina la grigliata di Piemonte si è presentata a tutte con l'anima gioconda. Don Peppe Garibaldi ci voleva liberare, invece un padrone è nato ad arrivare.